Radio Città Fujiko e il CRAP, Comitato Ricerche Associazione Pioniere, presentano Fumetti a Sinistra, il Pioniere, un mondo dentro a un balloon. Che mondo sarà se ha bisogno di chiamare Superman? Che mondo sarà, fa l'effetto del motore che non va? E bentornati a Fumetti a Sinistra, un mondo dentro il balloon, che tante volte ha indagato, indagherà su Gianni Rodari, anche a partire che l'anno scorso si è concluso il suo centenario della nascita. Ma non era solo Gianni Rodari, perché molti giovani maestri, tutti più o meno coetanei, in qualche modo si cimentarono in una grande sperimentazione popolare di didattica democratica, che poi in realtà ha scritto pagine davvero importanti anche a venire nel rapporto con le giovani generazioni. Non è un caso che, finito il centenario di Gianni Rodari, inizia quello di Mario Lodi, altro bravo maestro, altro elemento decisivo nel movimento di cooperazione educativa che tanto ha contribuito alla didattica nel nostro paese. C'è questo centenario, allora abbiamo interpellato Iuri Meda, che è coordinatore del comitato che celebra questo anniversario, per sapere di più su Mario Lodi. Sentiamo l'intervista di Morena Moretti dopo lo stacco musicale. Iuri Meda, quest'anno ricorre il centenario della nascita di Mario Lodi e tu poi l'hai conosciuto, ci hai anche lavorato insieme. Possiamo dire di Mario Lodi che sia stato un rivoluzionario proprio per il mondo della scuola, cioè un innovatore dei modelli educativi a partire dal secondo dopoguerra, ma poi per tutta la sua carriera, per tutta la sua vita? Sì, assolutamente, possiamo sicuramente dire che è stato rivoluzionario. È stato rivoluzionario perché si è trovato all'interno di un contesto come quello della scuola che usciva dal periodo fascista, che andava rivoluzionato. L'Italia non poteva sicuramente andare avanti a produrre cittadini di uno Stato democratico con le regole e con i paradigmi che erano stati propri della scuola fascista e che in qualche misura si continuavano a riprodurre anche all'interno della scuola del dopoguerra, attraverso gli stessi maestri che erano molto spesso quelli che avevano fatto lezione nelle aule durante il periodo del regime, attraverso anche i libri di testo che era difficile in qualche modo rivoluzionare, cambiare, che continuavano a portare dietro di sé un'impostazione che molto spesso era molto antiquata e anche logicamente un modello trasmissivo che continuava ad essere applicato a lezione e una scuola autoritaria che continuava a vedere al centro l'insegnante, il quale, dotato anche di tutti gli strumenti correttivi, punitivi, di quali era stato dotato fino a quel momento, continuava imperterrito sostanzialmente a dirigere la classe, piuttosto che invece, come avrebbe insegnato Mario Lodi proprio in quegli anni, a stare al centro della classe, ma insieme con i bambini. Questi maestri, perché poi c'era Mario Lodi, ma quelli sono stati gli anni di personalità come Ciani, come Rodari, come Magli, sono tutti degli anni 20, quindi tutti nati e cresciuti durante il fascismo, tutte persone che sono diventate appunto dei pedagogisti, che hanno lavorato nel mondo della scuola e dell'educazione e che però sono stati educati durante il fascismo. Quindi non avevano modelli altri rispetto a quelli, quindi dopo la Costituzione si sono dovuti inventare proprio un'altra pratica. Uso proprio la parola pratica perché sono stati maestri che hanno costruito la loro pedagogia lavorando con i bambini. È bello anche proprio sottolineare il fatto che Mario Lodi non abbia avuto maestri. È bello sottolinearlo perché all'interno in qualche modo del periodo nel quale si muove, parlo proprio del primo periodo, cioè degli anni che vanno dal 48 ai primi anni 50, Mario Lodi sembra brancolare nel buio. Dai documenti che stiamo studiando ora in occasione proprio della ricostruzione della sua biografia, che è funzionale un po' anche alle celebrazioni del centenario che ricordavi prima, ci siamo resi conto che Mario Lodi nel primo periodo credo ha una assenza completa di riferimento. Addirittura arriva a un certo punto ad annotare all'interno di un registro, nelle cronache della vita della scuola, ma che stia scemando l'amore per la scuola, che stia venendo meno quell'amore che mi ha spinto a fare questo lavoro. Sembra quasi voler abbandonare, sembra quasi voler desistere. Il motivo del suo scoramento è presto detto. In un'altra annotazione di poco successiva annota come avverto un senso di profondo smarrimento vedendo i bambini in classe o comunque nel corridoio della scuola, anche nelle pause, impietriti in qualche modo. Parla di statue inerti, coi cervelli fermi, ammutoliti di fronte al maestro, che non parlano, che non partecipano alle attività di classe. Eppure quando escono, dice poi, e li vedo dalla finestra uscire nel cortile, uscire per andare a casa, ecco lì invece il libero volo, lo definisce Mario Lodi proprio in questa annotazione. Nasce dal contrasto proprio tra questi due atteggiamenti, quello passivo all'interno della scuola e quello invece attivo, esuberante, al di fuori della scuola, un senso di profonda frustrazione. Dice sempre in un'altra nota, ci deve essere un modo di recuperarli al piacere dell'apprendimento. Ecco, sta proprio nel trovare una chiave per passare dall'obbligo formativo, dalla scuola dell'obbligo, alla scuola non divertente, come dice lui, non anarchica, ma felice. Cioè i bambini in qualche modo che vanno all'interno di quella che già, se ci pensiamo, un altro grande pedagogista italiano molti anni prima, Giuseppe Lombardo Radice, aveva definito come la scuola serena, la scuola della partecipazione attiva dei bambini, la scuola nella quale i bambini diventano al centro del processo formativo. Il maestro allora ha solamente la funzione di collaborare insieme a loro e far collaborare tutti loro all'interno di un clima felice, di un clima positivo, per il conseguimento di quelli che sono tutti quei risultati didattici che sono ritenuti fondamentali dal maestro, logicamente, in base anche ai programmi, ma soprattutto che vanno incontro a quelle che sono le esigenze espressive dei bambini. Tu hai citato la Costituzione. Mi piace sempre ricordare come Mario Lodi, all'interno di una bella intervista che fece nel 2008, è proprio riferimento alla Costituzione, lui abbia sottolineato come nel 1948, quando questa Costituzione esce e lui legge sostanzialmente l'articolo 21, nel quale si dice che tutti quanti i cittadini italiani hanno diritto di esprimersi con la parola, con lo scritto e con ogni altro strumento. E lì lui ha un altro momento di crisi, come quello che descrivevo poc'anzi. Perché? Perché si chiede, ma tutti quanti, uomini, donne, a quel punto, ma anche i bambini? Ecco, da questa domanda, dalla domanda se anche i bambini debbano essere cittadini, partecipi della vita del paese, che possono esprimere liberamente il loro pensiero attraverso la parola, attraverso lo scritto, ma non un tema dettato dal maestro che non dice niente al bambino, che non gli permette di esprimere quello che ha dentro, la sua vita, quello che sta affrontando in quel momento, le problematiche, i pensieri che lo attraversano, ma uno scritto libero, appunto, che venga davvero dal cuore del bambino. Ogni altro strumento per Mario Lodi a quel punto diventa libertà di espressione totale. Lui dice a un certo punto, i bambini che non sono bravi a scrivere sono bravissimi a disegnare, ed ecco lì il loro strumento di libera espressione, allora il disegno, e allora il teatro, e allora la musica, e allora la poesia, e allora tutta una serie di altri strumenti che Mario Lodi adotta in classe e mette a disposizione dei suoi bambini proprio per incentivare la loro partecipazione attiva all'attività che viene svolta in aula. Somewhere I lost connection. Continuiamo allora a sentire l'intervista di Morena Moretti a Yuri Med, coordinatore di questo centenario per Mario Lodi, ricordando che Yuri Med è docente all'Università di Macerata. Mario Lodi infatti scrive poi due diari, tiene conto di tutta questa esperienza e giornalmente appunta le cose che accadono nella sua classe. Sono due testi straordinari, ancora attualissimi e che possono essere ancora strumenti proprio di lavoro per gli insegnanti e però comunque in parte andrebbero anche o vanno attualizzati. Oggi nella scuola quanto Mario Lodi è presente con questo tipo di, diciamo, anche modello pedagogico popolare dal basso con al centro il bambino di cui tu parlavi? È una domanda veramente complicata, ti spiego perché tutti quanti negli ultimi giorni, avviate anche proprio le celebrazioni del centenario che dureranno poi per tutto l'anno, ci stanno chiedendo quale sia l'attualità di Mario Lodi. Beh, io credo che rileggendo quei diari pedagogici, e adesso lo possiamo fare grazie anche alle riedizioni che di C'è Speranza se questo accade al volo sono state fatte da appunto la Terza e del Paese Sbagliato che sta per uscire per Inaudi, ecco, grazie a questi strumenti che sono finalmente rimessi in circolazione a disposizione concreta degli insegnanti che non devono più andare in biblioteca a riscoprire magari su qualche scaffale polveroso questi vecchi libri, ma invece se li ritroveranno nelle mani in una nuova edizione tutto commentata, aggiornata e così via. Ecco, io credo che da lì vengano molte fonti di ispirazione. Noi nel corso della preparazione delle celebrazioni del centenario logicamente abbiamo riletto con grande attenzione tutti quei libri, anche Cominciare dal Bambino, che è un altro libro molto bello che sta anche lui per uscire per Rizzoli, e ci siamo resi conto di come questi libri sono dei libri fondamentali, sono dei libri che più passa il tempo e più diventano importanti, io credo. Perché dico questo? Perché credo che nell'epoca in cui Mario Lodi scrive quelle cose sono sì dirompenti, ma si inseriscono all'interno di un processo di forte rinnovamento della scuola italiana che vede altri attori, altri compartecipatori. Penso ad Albino Bernardini con Un anno a Pietralata, con Le bacchette di Lula, ma penso anche a Don Milani con Lettera a una professoressa, scritta con i ragazzi di Barbiana, cioè dei capisaldi teorici fortissimi che in qualche modo contribuiscono a rinnovare dal basso la scuola e a creare anche i presupposti, se ci pensiamo, di quel grande momento risanatore, innovatore, riformatore che poi sarà il 68. Oggi abbiamo la possibilità di riscoprire nuovamente quelle parole che anche se hanno più di 50 anni comunque continuano, secondo me, a parlare al cuore degli insegnanti. Al cuore degli insegnanti perché mettono di fronte l'insegnante alla scelta a quale modello vuole aderire. Mario Lodi lo dice molto chiaramente anche all'interno del Paese Sbagliato a un certo punto, quando dice non ci sono scuse. Non potete dirmi che io sono più bravo degli altri, che io sono speciale. Io sono un maestro come gli altri, un maestro che è entrato in crisi, un maestro che ha dovuto attraversare una crisi profonda e che l'ha superata solo grazie al rinnovamento della propria didattica, attraverso anche, devo dire, non l'abbiamo detto in precedenza, ma incontro con le tecniche Freinet attraverso il movimento di cooperazione educativa di cui un grande amico Mario Lodi era stato il fondatore, Giuseppe Magnini, ma come anche tante altre delle figure che abbiamo citato e che facevano parte di questo movimento. Ecco, forse quello che manca oggi è proprio un movimento profondo dal basso che sia in grado di catalizzare le migliori energie pur presenti tra i maestri, perché noi conosciamo e stiamo lavorando in questo anno, in questo centenario, con molti maestri bravissimi, innovatori, che però logicamente continuano ad avere bisogno di sentire cose nuove. E io credo che all'interno di questi libri, per quanto scritti tra gli anni 50 e gli anni 70, oggi siamo ancora in grado di trovare molte parole nuove e una bussola per il nostro rinnovamento, che nel caso del maestro deve essere continuo. Anche qui Mario Lodi lo dice più volte, non c'è un metodo, Mario Lodi lo dice questo. Quando parlate di metodo, ma che metodo usi? Io non uso un metodo, io comincio dal bambino. E questo è un messaggio bellissimo, perché vuol dire che in realtà ogni classe è una classe a sé stante, perché il materiale umano sul quale si basa l'attività che il docente svolge all'interno di quella classe si basa fondamentalmente sui bambini che si trova di fronte, bambini che deve conoscere, bambini che deve invitare ad esprimersi, bambini sulla base delle cui aspirazioni potrà costruire un determinato tipo di didattica. Quindi ogni classe fa scuola a sé, e non solo ogni classe, ogni anno, ogni giorno in realtà. Mario Lodi questo lo dice: tutti i giorni che io entro in classe mi trovo di fronte a una sfida nuova. E io credo che tutti i maestri che sanno cogliere questa sfida oggi possano ritrovare all'interno delle parole di Mario Lodi e dei suoi libri molte indicazioni utili. Fin qua Yuri Meda, professore dell'Università di Macerata, nonché coordinatore di questo centenario dedicato a Mario Lodi, la sua opera didattica e di pensiero in generale. Ora passiamo invece a parlare di graphic novel, e lo facciamo con questo testo, Le parole possono tutto, un lavoro di Silvio Vecchini e Sualzo, una delle copie più importanti e consolidate del fumetto italiano e internazionale per ragazzi. Hanno guadagnato il premio di letteratura per ragazzi di Laura Orvieto nella sezione tra i 12 e i 15 anni, ed è un discorso sulla magia e la potenza delle parole. L'intervista è di Simona Sagone, di Yucali, proprio a Silvia Becchini. Parole possono tutto. Com'è nata questa graphic novel? Avete lavorato insieme, lei e Sualzo, per le tavole e il testo? Visto che avete già lavorato insieme anche per La Zona Rossa e Alla Fine del Mondo? Sì, io e Sualzo lavoriamo insieme quando si tratta, insomma, di fumetti. Il nostro metodo di lavoro è un po' particolare, ma diciamo è proprio un lavoro a quattro mani, nel senso che la storia, il soggetto della storia di solito viene da me, sono io che scrivo e Sualzo che illustra. Però in realtà nei fumetti deve succedere, secondo noi, qualcosa di speciale, deve esserci un incontro speciale, e così continuiamo continuiamo a lavorare insieme anche quando, diciamo, dalla mia sceneggiatura, dalla mia storia passiamo a uno storyboard che è disegnato. Questo processo di scrittura continua, di scrittura, di modifiche, di cambiamenti, proprio fino, veramente fino alla fine, fino a quando le tavole non sono colorate, in modo che dalla mia scrittura e dai disegni di Sualzo arrivi un po' una novità per tutti e due. A quel punto, in quello che abbiamo scritto, non c'è più una grande distinzione, è vero che è Sualzo che illustra, però ci siamo passati a quel punto la palla talmente tante volte che non ricordiamo nemmeno noi chi ha portato magari delle modifiche o a chi dei due è arrivata una buona idea, un'idea particolarmente buona. Ma perché volevate ragionare proprio sulle lettere dell'alfabeto ebraico e farlo in modo laico, non legato alla religione, ma al potere delle parole per far accadere le cose? Sì, la storia proprio nasce da una riflessione, un po' dall'esperienza personale, un po' da tante adolescenze che incontro, insomma, nel mio lavoro così di autrice, anche durante i laboratori di scrittura con i ragazzi. Diciamo, l'idea era quella di far incontrare due cose che sembrano molto lontane, un'adolescenza di oggi e la grande patrimonio di sapienza preziosissima che è contenuta nella cultura ebraica, in particolare però nell'alfabeto ebraico, ecco, in queste lettere che, insomma, che così secondo la tradizione hanno proprio dato origine al mondo. E allora volevamo che questa adolescente così in crisi con le parole e così sfiduciata verso il potere delle parole, ma anche le promesse di felicità anche, no, ricevute, oppure la promessa di durare, di alcuni legami per lei molto importanti, ritrovasse invece nell'apprendere una lingua diversa dalla sua e che dà così tanta importanza a ciascuna delle lettere dell'alfabeto, ritrovasse un po' la fiducia e imparasse quasi parola per parola a tornare a comunicare, insomma, con gli altri e anche con se stessa, e attraverso le parole potesse ricominciare e dare forma al proprio mondo, come se fosse proprio una nuova creazione. Che significato ha nella storia il golem, il plasmare e poi sciogliere il golem di fango, il dar vita con la parola? Ecco, sì, per la prima volta noi abbiamo, questo per noi è il quarto fumetto che scriviamo insieme, per la prima volta abbiamo introdotto un elemento che è proprio fantastico in una storia in cui invece la nostra protagonista sembra proprio accerchiata dalla realtà, e da una realtà che le sta molto stretta e che è diventata difficile, anche dolorosa, ecco, che la fa un po' sentire davvero messa in un angolo. E questo elemento fantastico irrompe nella nostra storia in un momento di grande tensione per la protagonista, perché si ritrova sola, è nell'impossibilità di raggiungere il suo maestro, non riesce a parlare con suo padre, l'amicizia che aveva con, insomma, più importante sta vacillando, un momento di grande impotenza e frustrazione. Ecco, in questo momento anche di rabbia, Sara ricorda questa leggenda che le è stata raccontata, che è quella del golem, che a sua volta si riallaccia a un mito della creazione in cui Dio crea l'uomo proprio a partire modellandolo dall'argilla. Ecco, lei si ricorda questa leggenda e crea un piccolo golem, un po' come se stesse così facendo un gioco di infanzia, ma Sara invece è cresciuta e in un momento la sta attraversando un'energia molto forte, che sono i suoi desideri e il desiderio che la sua vita prenda un'altra strada. Ecco, tutta questa energia va a finire dentro questo piccolo uomo di argilla che inaspettatamente prende vita. Nella storia originaria del golem, questa creatura non può parlare, non ha bocca e non può parlare. È un elemento che abbiamo ottenuto anche nella nostra. Il golem non può parlare, ma può ascoltare, e Sara lo utilizzerà come un ascoltatore, come un amico, un custode, una presenza che l'accompagna e accoglie le sue parole. E il golem sembra crescere ogni volta che riceve delle parole da Sara. Tutte le parole che Sara non riesce a dire agli altri finiscono per far crescere questa creatura. Come nella storia della leggenda, il golem è una creatura ambivalente, che a un certo punto mostra un volto minaccioso, così accade a Sara, e forse è in quel momento che capisce che le parole che non riusciamo a dire possono diventare molto ingombranti, possono diventare qualcosa di minaccioso, quasi insomma uno spettro che può farci paura. E allora è il momento di lasciarle andare, lasciando andare il golem, lasciando andare anche l'idea del suo maestro che non c'è più. Sara probabilmente si ritrova grande e pronta a dire tutte le parole che deve dire, finalmente a se stessa, a suo padre, al ragazzo di cui è innamorata, alla sua amica, riprendere la vita e ricominciare. Quindi dalle parole, le parole come altrove, dalle parole si può trarre la forza per risolvere questioni irrisolte del quotidiano? Sì, noi pensiamo proprio di sì, anche se questo libro che dice tanto sulle parole in realtà è proprio incentrato sulla storia di una ragazza molto silenziosa. Ci piaceva andare a indagare come si preparano le parole ad uscire, no? Ci piaceva andare ad esplorare questo silenzio prima delle parole, questa calma che c'è prima di un cambiamento, che è una calma apparente. Ecco, accadono tante trasformazioni interiori, anche molto segrete, durante l'adolescenza, ma durante tutti i momenti di passaggio. Ecco, secondo noi avere una confidenza con le proprie parole vuol dire avere insomma una confidenza, un'intimità anche con i propri pensieri, saperli davvero trasformare, saper trarre dell'energia positiva anche dai momenti difficili. Questa settimana è tutto, quindi l'appuntamento alla prossima puntata, ricordando che per ascoltare questa trasmissione in podcast l'indirizzo online è www.radiocittafugico.it oppure www.ilpioniere.org. Ciao a tutti.